Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che guarda alle notizie e all'attualità attraverso il filtro dell'animalità. Quindi guardiamo soprattutto agli altri animali, o sarebbe meglio dire gli animali altri, la loro condizione, il modo in cui vengono considerati, pensati, immaginati. Questo ci dice molto sulla nostra società e nelle notizie di attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione che andiamo a cercare, troveremo sempre questa chiave di lettura. Nella puntata di questa settimana, che è la numero 693, torneremo sulla vicenda della psicosi orsi in Trentino per aggiornarvi con le ultime novità. Andremo poi in Ucraina, dove c'è un progetto per sostenere un rifugio per orsi e lupi situato nei pressi di Kiev, e dunque colpito dalla guerra e dai bombardamenti. Poi, se non fosse tragico, sarebbe comico, vi racconteremo della esilarante teoria secondo la quale la responsabilità dell'alluvione che ha appena colpito l'Emilia-Romagna dovrebbe ricadere sulle nutrie. Sì, avete capito bene, sulle nutrie. Dall'Emilia-Romagna ci spostiamo in Campania, dove i festeggiamenti per lo scudetto si sono espressi anche attraverso maltrattamenti verso animali inermi e indifesi, e vi proponiamo infine la seconda puntata della rubrica Animali da set, curata dal critico cinematografico antispecista Emilio Maggio. Non mancherà la consueta ricetta vegana a tema, firmata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, che questa settimana curerà anche il montaggio musicale della puntata, attingendo a piene mani dall'ultimo album di Stefano Bollani. Speriamo di avervi incuriositi. Come prima notizia parliamo dell'orsa JJ4, l'orsa condannata a morte che ci tiene con il fiato sospeso da settimane. La nostra premessa sulla questione orsi è che non esistono orsi problematici e che la loro libertà è sempre comunque il fine da perseguire. Smentiamo il discorso pubblico secondo il quale ci sarebbe un'eccedenza di orsi in Trentino, cioè gli orsi sarebbero troppi. Vi diamo una notizia piuttosto rilevante. Sembra infatti che l'orsa JJ4, da nuove prove, sia innocente, cioè non sarebbe stata lei ad aggredire il runner morto in Val di Sole in Trentino. A esserne sicura è la LEAL, la Lega Antivivisezionista, che in una nota spiega: dalla relazione tratta dalla perizia veterinaria forense che perviene dal rappresentante legale di LEAL, Aurora Loprete, si apprende che non è stata l'orsa JJ4 ad aggredire Andrea Papi. Nelle relazioni si legge infatti che sono state rilevate lesioni identificabili come da penetrazione di coppia di canini, caratterizzate da una distanza che è tipica di un orso maschio adulto. Le femmine di orso presentano infatti misure inferiori rispetto ai maschi. Le lesioni quindi non corrisponderebbero alle ferite che si riscontrano in caso di attacco finalizzato alla eliminazione dell'avversario. Quindi un altro passo importante della perizia è quanto riportato nella parte finale, che recita così: relativamente alla natura dell'attacco, esso è riconducibile a un tentativo protratto di allontanamento e dissuasione da parte dell'orso sulla vittima. Anche relativamente a questo aspetto, le evidenze riscontrate non consentono di classificare l'azione lesiva né come un attacco deliberato né come una predazione. Quindi è ancora in divenire la descrizione dei fatti, così come si sono realmente svolti. Ma dalle prove che si sarebbero manifestate in questa perizia, la scienza scagionerebbe le orse trentine e la tipologia di attacco scagionerebbe definitivamente tutti gli orsi. Con questo la LEAL smaschera una farsa costruita secondo Leal, artatamente da Fugatti e dalla sua giunta e ne chiede le immediate dimissioni. Seguiremo la vicenda e vi faremo sapere le evoluzioni di questo scontro, ormai anche a livello giuridico, ma forse l'avvenimento più importante e significativo di questi giorni sono due manifestazioni che si terranno a Trento, uno domenica 21 maggio e poi il 25 maggio, in corrispondenza con la sentenza del TAR che si dovrà pronunciare sull'abbattimento dell'orsa. Esiste un canale Telegram che si chiama Aprile Lineetta in basso al Lineetta in basso Casteller, dove si stanno organizzando macchine, treni, bus per salire a Trento, quindi gli attivisti e le attiviste interessati sono pregati di iscriversi a questo canale Telegram e di tenersi comunque in contatto per poter garantire una presenza massiccia in queste importanti mobilitazioni. A questo proposito vi facciamo ascoltare un breve spot. Il 23 aprile c'è stata una bellissima e partecipata manifestazione che davanti alla prigione del Casteller ha richiesto a gran voce la liberazione dell'orsa Gaia GG4, senza dimenticare l'ergastolo che sta scontando l'orso M49 conosciuto come Papillon. Purtroppo la politica trentina si dimostra insensibile ed attenta e impaziente di poter uccidere Gaia, senza se e senza ma. La lotta a fianco della popolazione ursina non è quindi terminata ed è per questo che il 21 di maggio dalle ore 14 saremo presenti davanti alla sede della provincia autonoma di Trento per richiedere ancora a gran voce che Gaia venga liberata e possa così ricongiungersi con i suoi cuccioli. Guerra agli orsi che sembra creata d'arte dalla politica, dalle istituzioni, si contrappone una guerra assai più guerreggiata e micidiale, quella combattuta tra Ucraina e Russia, dove a farne le spese, oltre ai viventi umani, ci sono anche i non umani. Il 5 maggio scorso si è tenuto a Roma un incontro organizzato dalla LAV per rendicontare il progetto Love for Ukraine a sostegno del White Rock Shelter, il rifugio della roccia bianca che sorge a Kiev tra l'aeroporto e l'autostrada, quindi in una posizione molto sfortunata. In quel rifugio sono stati adottati, curati e accuditi molti orsi e lupi salvati da attivisti ai quattro angoli del paese. La speranza è che alcuni esemplari possano essere adottati o presi in carico da altri centri europei per toglierli da quella zona molto molto pericolosa. L'associazione italiana LAV, Lega Antivivisezione, è intervenuta per aiutare i volontari che avevano già salvato questi animali selvatici e, in una dimostrazione di coraggio e affetto, sono anche rimasti con loro sotto le bombe. Sul posto, grazie ai fondi dei donatori della LAV, è stato allestito un container in cui poter stoccare cibo e altro fabbisogno per gli animali selvatici, oltre a coprire tutte le loro esigenze alimentari e veterinarie. La cultura in quella parte del mondo è quella di avere uno zoo in ogni città, quindi in Ucraina c'erano e ci sono tanti animali selvatici da salvare, oltre a quelli di facoltosi proprietari di grandi felini che vengono sfoggiati come un simbolo di ricchezza. Ha dichiarato questo Pier Giorgio Giacovazzo, inviato del TG2 in Ucraina, moderatore dell'incontro che si è tenuto a Roma. Non vogliamo dimenticare né abituarci alla guerra in Ucraina, ma anche a quelle in corso ad ogni latitudine. Ovunque l'uomo decreta la guerra ad altri umani, nel mirino ci sono anche gli animali, ha detto questo Gianluca Felicetti, presidente della LAV, Lega Antivivisezione, in apertura dell'incontro. Giovedì 4 maggio è uscito sul quotidiano La Stampa un articolo di Mario Tozzi, notissimo geologo e divulgatore scientifico. Il titolo è «La strana bufala sulle nutrie». Alibi ai danni provocati da noi. Davvero siamo ben oltre qui al concetto di foglia di fico, si cerca di dissimulare enormi responsabilità istituzionali in un modo talmente sfacciato da sembrare comico. Incolpare le nutrie dei disastri ambientali ci sembra degno di testate satiriche, come potrebbe essere il francese Charlie Hebdo o il livornese Vernacoliere. Vi leggiamo alcuni passaggi del pezzo di Tozzi. Dopo essercela presa con gli orsi e in attesa di processare i lupi, ecco pronto un altro imputato vivente non umano, indicato come responsabile dell'alluvione che ha appena colpito l'Emilia-Romagna, la nutria. Non possiamo sottrarci a una riflessione, l'ennesima, sul nostro rapporto col mondo naturale, un rapporto che abbiamo completamente scardinato in un assalto insensato all'ambiente, favorito da un apparato tecnologico senza precedenti, nell'illusione che tanto toccherà a qualcun altro pagare il conto. Come è possibile, ci si domanda, che dopo mesi di siccità arrivino i flash flood, le alluvioni improvvise? La vera domanda sarebbe invece come è possibile che ci colgano ancora impreparati. Infatti basta aver letto l'ultimo rapporto di quei catastrofisti dell'IPCC che recita, testuali parole, frequenza e intensità degli eventi meteorologici a carattere violento sono aumentate negli ultimi 70 anni e il responsabile maggiore è l'uomo. Ma a prescindere da chi è il responsabile, fatto sta che questi eventi accadono, che non si siano informati i cittadini passi, ma che non lo abbiano fatto gli amministratori, è imperdonabile. Come un po' è successo a Ischia quando è stato permesso l'impermissibile. Ogni alluvione, ogni evento siccitoso estremo, ogni ondata di calore sono figli di ciascuno dei barili di petrolio, dei metri cubi di gas che continuiamo a bruciare, ma anche delle corporation che su questo continuano a lucrare e infine dei governi, quasi tutti, che continuano a sovvenzionare i combustibili fossili con denaro pubblico. Poi c'è il territorio. Non abbiamo ancora imparato che più lasci in pace i fiumi, più li liberi dalla sclerotizzazione del cemento, meno occupi le aree golenali, più fai un passo indietro e meno vittime e danni subisci. E invece noi no. Dalli a trasformare i fiumi in canali, a cementificare gli alvei, a prelevare ghiaie, a impiantare dighe che dovrebbero laminare le piene e non riescono quasi mai. Quando arriva il disastro, questa è la parte più interessante dell'articolo, ecco il tradizionale repertorio di colpevoli, nell'ordine 1. L'eccezionalità dell'evento, 2. La mancanza di opere di protezione, 3. Gli ambientalisti, che sono quei cattivi che impediscono di ripulire i corsi d'acqua, e buone, ultime, ma in crescita, udite udite, le nutrie. A causare il disastro non sarebbe quindi la cementificazione del territorio, ma queste bestiole verso cui si nutre un'ostilità inspiegabile, forse perché assomigliano ai ratti. Quindi la colpa è delle nutrie, non della bulimia costruttiva di un paese che divora 2 metri quadri al secondo di territorio naturale. Vuoi mettere, insomma, quando hai un baffuto colpevole già nel mirino. Ecco che appunto il capro espiatorio in questo caso non è un capro, ma è una nutria. Potremmo intitolare questo articolo di Mario Tozzi, Nutrie espiatorie. Giorni scorsi sui social abbiamo visto scorrere una serie di foto inquietanti di animali, soprattutto cani, ma anche asini dipinti di azzurro e trascinati a forza per le strade durante i festeggiamenti per lo scudetto napoletano. Non bastava il terrore causato dai botti, alcuni animali sono stati costretti anche a subire l'umiliazione di venire colorati di azzurro. In particolare ha fatto rumore un asino tutto colorato di azzurro che è stato portato in giro per la città, ripreso in diversi video che circolano sui social, suscitando le critiche di molti, che hanno portato anche alla denuncia dei responsabili. Studiando la storia dello stemma del Napoli Calcio, il ciuccio è da molto tempo simbolo della squadra ed è rappresentato su tutti i gadget e gli striscioni, ma quello che è successo nella provincia napoletana non ha a che fare con l'affetto dei cittadini per la loro mascotte, anzi diremmo il contrario. Un asino, infatti, bardato con i colori della squadra, tinteggiato di azzurro, è stato fatto sfilare per le strade affollatissime di Ercolano. In alcuni video condivisi il 5 maggio, l'animale viene toccato dai passanti, dagli sconosciuti, accerchiato, intorno a lui risuonano i fuochi d'artificio, una situazione che metterebbe in difficoltà qualunque persona, e anche gli animali non sono immuni da questo disagio. Gli asini poi, grazie alle loro orecchie lunghissime, sono anche dotati di un udito particolarmente sensibile che li espone molto più di noi al fastidio per scoppi forti e improvvisi. Episodi simili si sono verificati anche in altre zone campane. Si sono poi viste girare foto di cani, in particolare si è visto un cane brachicefalo colorato di azzurro, tra l'altro un animale particolarmente esposto a difficoltà respiratorie. Dipingere i cani, tra l'altro, provoca loro dei fastidi molto importanti, dato che il loro olfatto è molto sviluppato, sono sensibili agli odori emanati dalle vernici e da altri materiali simili. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha reso noto che l'animale è stato poi sequestrato e trasferito in un maneggio vicino a Benevento. Per quanto ci riguarda, ci dispiace che all'asino sia toccato in sorte il maneggio, che dal nostro punto di vista, in quanto redazione animalista antispecista, non può essere definito un posto realmente sicuro per lui. Ci auguriamo almeno che per i responsabili del maltrattamento vengano disposte pene giustamente severe. Were harmed in the making of this film. Nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo film. Questo disclaimer che appare nei titoli di coda è ormai famoso in tutto il mondo. Ma è davvero così? Davvero gli animali che vediamo nei film non sono stati maltrattati? Ma in che modo vengono scelti? Chi li procura? Chi li addestra? E soprattutto come? Ha senso mandare un messaggio a favore degli animali utilizzando animali addestrati? A queste e a tante altre domande cercherà di rispondere una nuova rubrica che ci è stata proposta e verrà curata dal filmologo di fiducia di questa redazione, ovvero Emilio Maggio. Vi proponiamo oggi la seconda puntata. Il secondo lemma di questa serie dedicata agli animali da set è O come orso. Il 4 gennaio del 1903, negli spazi adibiti allo svago forniti dal Luna Park di Coney Island, di fronte a una platea di ben 1500 persone, venne giustiziata mediante elettrocuzione un'elefantessa di nome Topsy, re di aver ucciso tre dei suoi guardiani aguzzini dopo 28 anni di durissime prestazioni lavorative nel celeberrimo circo Four Pug. Topsy era stata catturata in India per poi essere venduta e portata negli Stati Uniti. Nella terra dell'abbondanza comincia il suo calvario tra fughe e continue ribellioni ai suoi carcerieri. Nella terra dell'abbondanza finisce la sua vita attraverso la messa in scena della sua morte. Infatti, dopo vari tentativi, tutti falliti, di eliminarla con una dose letale di veleno e dopo aver meditato di impiccarla, le autorità della città di New York si rivolsero a Thomas Edison. Edison, il grande inventore della corrente elettrica, Edison, il grande inventore della lampadina, Edison, il grande inventore del fonografo, Edison, il grande inventore della sedia elettrica, Edison, il boia, che era solito uccidere animali e riprenderli per testare la sua nuova invenzione, che doveva superare in fatto di sicurezza la concorrenza di Westinghouse e Tesla, fautori della corrente alternata. In ballo c'era ovviamente il controllo delle strutture elettriche su tutto il territorio americano. La macabra esecuzione venne ripresa e diretta dallo stesso Edison, che fece circolare il filmato con tanto di titolo Electrocuting an Elephant in tutti gli Stati Uniti, proprio per promuovere la sua sedia elettrica per animali ribelli e di grosse dimensioni. Entrando nel merito, l'orso ha una lunghissima carriera cinematografica che ha sviluppato due tendenze, entrambe fortemente antropocentriche e condizionate sempre dal problema della incolumità delle comunità umane. La prima viene suffragata da una visione, diciamo, zoologica, che riduce la dimensione brada dell'animale selvatico, in altre parole, l'animale non addomesticato in cattività, a emblema della ferinità bestiale. La seconda contrappone proprio la sua non domesticità, anche quando addestrato e usato negli spettacoli circensi, l'orso viene comunque percepito come un animale inaffidabile da temere, alla civiltà e alla cultura dell'umano. Fra gli esempi della prima tendenza abbiamo un film che potremmo definire capostipite, cioè L'Orso, diretto nell'88 da Jean-Jacques Annaud, che attraverso quella patina di conversione green superficiale, oggi egemonica, ricalibra il sentimentalismo politicamente corretto della Disney, oggi Disney Nature, per riscoprire la bellezza incontaminata della natura. Film che ha generato un vero e proprio filone, il cui ultimo prodromo forse è proprio quel Revenant del regista messicano Alejandro González Iñárritu, in cui l'immagine mitopoietica della sopravvivenza sembra ormai dettare l'agenda etica dell'era dell'antropocene. Il capitalismo ha certo contribuito al disfacimento della natura. Ricordo che il protagonista è un cacciatore di pelli, merce fondamentale per l'economia di scambio dei coloni europei che cercavano fortuna in America a cavallo tra il 700 e l'800, ma in fondo è sempre la malvagità umana la vera responsabile degli eccidi naturali. Fra gli esempi della seconda, invece, abbiamo La pelle dell'orso di Marco Segato, interpretato da un Marco Paolini, che svela cosa significa avere una sensibilità ecologica. Gli animali, cioè, vanno considerati come risorse per l'ambiente della comunità umana. Se un orso diventa pericoloso, va abbattuto, per non parlare dell'esaltazione della caccia come ritorno alla natura incontaminata. Concludo fornendo alcuni suggerimenti di visioni altre, molto stimolanti, sia dal punto di vista formale che da quello dei contenuti. Il bellissimo I racconti dell'orso, prima di tutto, dei due filmmaker romani Samuele Sestieri e Olmo Amato, in cui attraverso una struttura fiabesca e onirica, direi surreale, l'orso è una pura evocazione poetica. Oppure L'orso nero, un corto del regista canadese Xavier Ceron, che riesce con toni provocatori e blasfemi propri di un horror di serie Z a mettere alla berlina tutti i dispositivi culturali e sociali che materializzano il nostro folle rapporto con gli animali ungulati. L'orso qui è addirittura un uomo travestito assai grossolanamente. Per finire, ricordo che il cine animale Orso rimane oggetto di uno uno dei più massacranti iter di addestramento prima di arrivare sulle magiche ribalte cinematografiche. Questi animali nascono sul set, l'intera loro vita è circoscritta in questa speciale cattività spettacolare e in fondo sono attori più che orsi. Troverete tutte le puntate del ciclo Animali da set raccolte in un apposito banner nel nostro sito www.restiamoanimali.it. Anche questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà e naturalmente a tema. Visto che purtroppo abbiamo dovuto segnalare maltrattamenti di animali proprio nella città partenopea, abbiamo chiesto a Gabriele Palloni una ricetta, un piatto tipicamente napoletano, ovviamente in versione senza crudeltà. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Da tifoso di calcio capisco la voglia e l'euforia di festeggiare la propria squadra, specialmente se, come nel mio caso, questa non vince da decine di anni. Se la Fiorentina vincesse il campionato probabilmente si porterebbe in giro per i viali la statua del Davide. Ma che bisogno c'è di maltrattare gli animali? Questo non lo capisco. Ve lo suggerisco io un modo favoloso e totalmente non violento per festeggiare. La pasta e patate. Gli ingredienti per 4 persone sono 160 g di pasta corta mista, 500 g di patate, una cipolla bianca, una carota, 100 g di pomodorini, una costa di sedano, 100 ml di latte di soia naturale, un cucchiaio di succo di limone, 15 g di amido di tapioca, un cucchiaio di lievito alimentare, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Tritate grossolanamente la cipolla, il sedano e la carota. Tagliate i pomodorini a cubetti piccoli e versate tutto in una pentola capiente. Fate rosolare a fuoco lento con olio extravergine per 5 minuti. Nel frattempo sbucciate e pulite le patate, quindi tagliatele a cubetti non troppo piccoli e unitele nella pentola con le altre verdure. Dopo qualche minuto coprite il tutto a filo con acqua o brodo vegetale. Quando avrà preso il bollore abbassate la fiamma e fate cuocere col coperchio a fuoco lento per una mezz'ora. A parte stemperate l'amido di tapioca con latte vegetale, il succo di limone, un cucchiaio di olio extravergine, uno di lievito alimentare e il sale. Fate addensare in un pentolino mescolando con una frusta a fuoco lento. Quando le patate saranno quasi cotte, versate la pasta e, se necessario, un altro mezzo bicchiere di brodo o acqua. Togliete il coperchio e lasciate asciugare. Quando la pasta è cotta al dente, aggiungete la crema di tapioca e spengete il fuoco. Girate bene e portate in tavola. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola «Se vuoi vivere sano, cucina vegano».